Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un giorno venne ad allenarsi con me l'allora presidente della società per cui correvo. Alla fine dell'allenamento mi disse: secondo me hai uno scatto bruciante. Rimani coperto fino alla volata ed esci solo negli ultimi metri. Potresti anche vincere. Mi chiamo Alessio, ho 47 anni, ho vissuto 30 anni a Milano, ma adesso vivo a Grosseto e faccio il cuoco. Ho un figlio e vivo in Maremma, che è un posto bellissimo. Io ho imparato a sciare un po' come tutti quelli che imparano a sciare, a parte alcuni casi che imparano molto tardi. Io ho incominciato piuttosto presto perché i miei genitori, che non sciavano, però mi obbligavano insieme a mia sorella a raggiungere questa Alpe sopra dove avevamo la casa, l'Alpe di Mera in provincia di Vercelli, per fare delle grandi sciate con i maestri. Insomma, ho imparato più o meno l'ABC e ancora adesso ogni tanto vado a sciare. Ma non è questo l'argomento di oggi. L'argomento di oggi riguarda la gara che una volta feci proprio lì all'Alpe di Mera. Io non ho mai partecipato a nessuna gara vera e propria, era una gara aperta a tutti, ero su in montagna e decisi di farla. La gara si svolgeva in questa pista nemmeno troppo lunga, che era il Pian Rastò, per quelli che se la ricordano e che hanno mai frequentato l'Alpe di Mera. Adesso ha un altro nome. Tant'è, stavo andando bene in questa gara, stavo scendendo abbastanza forte, non so perché, ero in forma, poi a dire la verità non avevo idea dei tempi, però sentivo che potevo andare bene. Le ultime, che so, quattro porte sul muro finale dove poi arrivavi al traguardo, io ho fatto una cosa che per me è stata impercettibile, l'ho capita solo dopo. Ero, non dico a uovo, ma ero bello dritto verso il traguardo e a un certo punto mi sono sollevato. Mi sono alzato appena appena, come se volessi rallentare. Non so se per un attimo ho avuto paura di cadere o se la velocità era eccessiva, infatti poi non ho più fatte di gare. Però lì chiaramente quello è un episodio molto evidente in cui a un certo punto io stavo andando veloce, mi sono alzato e ho tirato il freno. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, questo programma e voi siete qui. Noi facciamo quello che facciamo tutti i giorni in questa fascia oraria. Raccontiamo una storia, raccontiamo la storia di una persona che ha voglia di condividerla e che quindi ci racconta un pochettino del mondo intorno a noi, di chi sono le persone intorno a noi e di quello che fanno tutti i giorni. La storia di oggi, la storia di Alessio, non parla di una gara di sci, parla in realtà di una gara in bicicletta, ma l'argomento è esattamente quello di cui vi parlavo, è che a un certo punto capita nella vita e non solo nello sport di essere dritti verso un obiettivo e non si capisce bene perché. Tiriamo il freno. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24. Ci trovate qualche cosa in più rispetto a quello che vi racconto durante il giorno, trovate i pezzi della storia, trovate delle foto, trovate le foto ad esempio della storia di ieri che ha avuto un sacco di successo, la foto della nave Continental e di Giorgio che era imbarcato sulla Continental. Insomma, stanate lì, trovate un sacco di roba riguardo al programma. Sul profilo Twitter invece Margherita Ina, la più brava twittatrice della redazione di Radio 24, racconta quello che facciamo praticamente secondo per secondo. Quindi voi siete qui Radio 24, voi siete qui R24. La storia di quella volta in cui avete tirato i freni, ripeto, non sapete nemmeno voi bene il perché. Per paura, per opportunità, perché magari era giusto così, perché era giusto a quel punto rallentare un po' e lasciar passare qualcun altro, magari. Ecco, poi però chi lo sa, se vi siete anche pentiti di quella scelta, ce lo raccontate adesso in diretta al 349-238-6666 oppure a tutti gli altri profili che vi ho appena raccontato. Vi ripeto, la storia di Alessio è una storia che parla di un piccolo pezzo della sua vita. Adesso Alessio lo sentirete poi al telefono, fa altro nella vita, sono passati diversi anni, eppure ha esercitato quello che noi chiediamo di fare alle persone che hanno voglia di raccontare. Scegliete un momento della vostra vita che in qualche modo racconti qualcosa di voi. Adesso fate tutt'altro, fate un lavoro diverso da allora, siete sposati, allora non lo eravate, vivete in una città diversa da dove eravate all'epoca. Bene, quel momento là però in qualche modo vi rappresenta. Voi siete qui, @radio24.it, una cartella, una pagina, e noi ci facciamo una puntata. State lì, Alessio è in bicicletta e a un certo punto decide che forse è meglio tirare i freni. Ogni giorno percorro un lungo tratto di strada per andare al lavoro. Quattro volte al giorno, avanti e indietro. È una strada con poco traffico, in mezzo alla Maremma grossetana, e per me, che ho vissuto a Milano per 30 anni, risulta un viaggio piacevole. Mi capita spesso di guidare assorto nei pensieri. E un giorno mi sono detto: se con una bacchetta magica potessi rivivere un episodio della mia vita passata, per poterlo cambiare, quale sarebbe? Ci ho pensato molto. Ho pensato alla mia vita sentimentale, lavorativa, alla mia famiglia, ma con mia soddisfazione ho preso atto di non avere moltissimi rimpianti, se non per un fatto. Un fatto che a distanza di anni può sembrare banale, ma in quel momento era tutto per me. Io sono sempre stato legato alla Toscana perché i miei genitori erano di origine toscana, e però mio padre per lavoro viveva a Milano. Quando ho conosciuto una ragazza di qua mi sono innamorato, e dovendo scegliere chi si doveva muovere dei due, senza ombra di dubbio ho deciso subito: mi muovo io. E di questo non mi sono mai pentito assolutamente. Vorrei tornare agli ultimi 200 metri di una gara ciclistica. All'epoca avevo 16 anni e già correvo da 5 stagioni. Non era un fenomeno, ma me la cavavo. Qualche piazzamento nei primi 5, ma soprattutto correvo sempre all'attacco, senza riuscire a raggiungere una vittoria. Un giorno venne ad allenarsi con me l'allora presidente della società per cui correvo. E alla fine dell'allenamento mi disse: "Secondo me hai uno scatto bruciante. Rimani coperto fino alla volata ed esci solo negli ultimi metri, potresti anche vincere." Quelle parole dette da lui, che per me era un mito, mi sorpresero ma allo stesso tempo mi caricarono. C'era solo un piccolo problema: io avevo una paura fottuta di fare le volate. Per farla breve, durante la settimana prima della corsa mi convinsi, grazie anche alle pressioni del mio allenatore, che la domenica successiva avrei fatto questa stramaledetta volata. Di quella cosa mi ricordo poco di tutta la giornata, di tutta quella corsa, eccetto gli ultimi 2 chilometri. Il gruppo era lanciato, un lungo rettilineo, vento alle spalle che favoriva l'alta velocità. Il ciclismo è sempre rimasto nel mio cuore, anche se ho smesso ormai da 30 anni. Ho corso per 5 anni e mi sono divertito tantissimo, anche se non ero un vincente. Mi sono reso conto che comunque non sarebbe stata, diciamo, un'attività professionale, perché fra tutti i corridori che ho visto solamente un paio sono passati professionisti. Però veramente, nonostante tutti i problemi che ha il ciclismo, il doping e quant'altro, è uno sport fantastico. Ricordo che ero in buona posizione, al coperto. In un attimo arrivammo sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. La velocità era aumentata, qualche sbandata, ma mi sentivo alla grande. E mi ripetevo continuamente: stai coperto, stai coperto. Partì la volata. Una frazione di secondo prima di scattare mi passò un pensiero nella mente. E il pensiero era: adesso cadiamo. Fu abbastanza per tirare i freni e mi feci sfilare dal gruppo. Avevo fallito. Quella fu l'ultima mia stagione agonistica. Ecco, vorrei tornare in quell'attimo per poter scaricare tutta la mia forza sui pedali e chissà, avrei potuto anche vincere. Emanuele Botti era uno bravo. Lui è stato uno dei primi attori che io ho conosciuto appena arrivato a Milano. Lele aveva un paio d'anni più di me. Era un attore, ma gli piaceva anche scrivere. Era un bravo interprete, però riconoscevi sempre lui dietro al personaggio. Non ci siamo mai frequentati più di tanto, però posso dire che in qualche modo eravamo amici. Alla maggior parte degli attori di teatro sembra di non esistere quando non stanno sul palco. Lui però non era uno di questi. Viveva a Milano, però gli piaceva la montagna, così, quando non lavorava in teatro, raggiungeva degli amici che tenevano un rifugio. In cambio dell'ospitalità, dava una mano dove serviva. Proprio questo distacco lo portava a lavorare di più e meglio degli altri. Non so come, ma noi ci dannavamo per aprirci dei contatti che il più delle volte si risolvevano in niente. Lui invece se ne stava nel rifugio con gli amici, poi scendeva a Milano e trovava quello che cercava con un'apparente facilità. anche se eravamo quasi coetanei, è stato un punto di riferimento per me, sia dal punto di vista del lavoro, sia soprattutto per come intendeva la vita. A Lele abbastanza presto è arrivata una possibilità di quelle da non perdere. Lui era quello giusto per uno spettacolo importante che si sarebbe fatto a Genova. Allora è sceso dal rifugio, ha fatto un provino, si è trasferito a Genova e le nostre strade lì si sono divise. Da allora poi non ho più saputo nulla di lui per anni. Ero addirittura convinto che si fosse trasferito in un'altra città o che avesse cominciato una carriera che mi sfuggiva e pochi amici in comune si sono dimenticati di aggiornarmi su di lui. Poi anni dopo, una sera, mentre cercavo la casa di un amico che mi aveva invitato a cena, me lo trovo di fronte. Anche lui aveva ricevuto lo stesso invito. Quando ci frequentavamo mi metteva un po' di soggezione e anche a distanza di anni non sapevo bene come avvicinarlo. Così è stato lui ad avvicinare me. Mi ha salutato e l'ha fatto come si saluta un amico, un vecchio amico. Anche se non abbiamo mai avuto la confidenza, subito mi ha fatto piacere che ci fosse quel rapporto tra di noi. A quella festa lui mi racconta che ha cambiato completamente lavoro. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti e si è messo a fare il ritrattista per quelli che volevano avere un ritratto. E poi quella sera, mentre beveva un Pimm's con un sacco di frutta, si è messo a raccontarmi la sua storia. Sai, proprio quando stava andando bene, mi ha detto, ho tirato i freni, non mi divertivo più. Non lo so, è stato il fisico a capirlo per primo. Perdevo la voce all'improvviso la sera a teatro, oppure mi addormentavo in quinta. E non ho resistito. Ho spento il telefonino e mi sono passato una stagione intera in un rifugio. Poi mi sono iscritto in accademia e ho ricominciato la mia seconda vita. Allora non l'avevo realizzato, ma la verità è che finché si facevano le prove non era nemmeno male, ma quando cominciavano le repliche, il lavoro principale diventava riempirsi la giornata, fino a quando non si entrava in teatro alla sera. E io non l'ho mai sopportato. Durante la tournée ero diventato intrattabile, mi sembrava che non si parlasse altro che di cibo o di paghe dei colleghi. Il pranzo e la cena erano le principali attività della giornata. Tutti i giorni a mangiare cose buone e golose, tutte le sere a fare tardissimo. E per me, non so come, ma era diventato un incubo. Se non hai delle passioni forti da coltivare, tutte quelle ore libere sono pesanti da sopportare. Per me lavorare in teatro voleva essere un'occasione di scoperta, di conoscenza. Invece il teatro che ho frequentato io era un ambiente anacronistico e beato della propria ritualità. Mi spiace un po' di non avere fatto altre esperienze, ma per me bastava così. E quella sera lì, mentre lui parlava, io mi sono visto riflesso un po' in quello che diceva. Vedevo le mie scelte attraverso la sua storia. Tirare i freni e fare un passo indietro qualche volta genera rimpianti, ma qualche volta no, ci permette di scoprire delle possibilità. Io non lo so se Lele Botti oggi è contento di quello che fa, ma so che se tornasse indietro farebbe la stessa cosa. Cucina Alessio nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui, sul sito è sempre quello, ovviamente radio24.it, è in una cucina professionale, cioè nella cucina di un ristorante evidentemente, ha un bel camice bianco, si chiama camice quello del cuoco, e sta facendo con quello strumento che è un tipo della è come se fosse, adesso mi viene come descriverlo questa roba, è quello che ci metti dentro della crema, schiacci e fa la cremina, non lo so, chiediamolo a lui come si chiama. Pronto Alessio? Sì, ciao Matteo. Ciao, scusami, buon pomeriggio. Grazie, ciao. Anche a te. Come si chiama quella cosa che si chiama sac à poche? Sac à poche. Sì. Scusami, con una C sola o con due? Con una sola. Che significa sacco da schiacciare. Sì. Quindi sì, più o meno sì. Cioè, in realtà il suono è giusto. Sì, è giusto. Che cosa stai lì questa foto? Stavo facendo delle meringhe. Ah, ok, sto quindi facendo delle meringhe. La meringa di cosa è fatta? Di bianco dell'uovo? Sì, bianco dell'uovo e zucchero a velo, sì, sì. Basta, forno bassissimo per parecchie ore, è tutto lì. Sì. E via, e le meringhine sono pronte. E le meringhine sono pronte, giusto. Ma quello è il tuo ristorante? Tu sei... No. Lavori in un ristorante? No, neanche. Io lavoro per un'azienda vinicola, Principalmente lavoro per i proprietari e poi quando arrivano clienti all'azienda oppure nelle varie rete di turismi mi sposto con la mia macchinina all'interno dell'azienda. E tu che cosa sai fare? Cioè tu sei un cuoco che sa fare tutto? Sì, quindi. No, io sono cuoco da sempre, da quando avevo 17 anni faccio il cuoco. Ho sempre fatto questo. Perché adesso vige molto la regola dello specializzarsi, no? Quello che fa gli antipasti, quello che fa i primi, quello che fa i secondi. Sì, però guarda, bisogna saper fare un po' di tutto, perché poi alla fine quando se poi un domani con l'esperienza diventerai uno chef di cucina, devi essere in grado di muoverti in tutta la cucina, quindi se qualcuno è in difficoltà devi andare ad aiutarlo, comunque devi insegnare qualcosa. Insomma, quindi scusami, devi sapere fare di tutto. Tu hai iniziato a Milano e hai lavorato a Milano facendo questo mestiere, sì, giusto? Per un po'. Ristoranti o cose simili? Ho fatto un po', sì, ristoranti, principalmente ristoranti. E poi nel 2003 ho conosciuto questa ragazza che attualmente è la mia compagna e ho dovuto prendere una decisione. Chiaro, per me è più facile muovermi perché è un lavoro che si trova esportabile, sì. Però ho deciso di venire, di spostarmi io qua in Maremma e sinceramente diciamo è stata esatto, non è stato vista da qui, non sembra nemmeno così difficile da prendere come scelta. Esattamente dove in Maremma? Vivo a Grosseto, però l'azienda dove lavoro è l'entroterra fra Siena e Grosseto. Come si chiama il posto, per curiosità, che conosco un po'? Poggi del Sasso, a metà strada più o meno, fra Siena e Grosseto. Tra Siena e Grosseto, cioè quanto ci metti in macchina ad arrivarci? 35-40 minuti. Ma la fai in bicicletta anche, no? No, non ci vado più in bicicletta. Infatti, perché in bicicletta hai proprio smesso di correre, non solo di correre, l'ho capito, ma hai smesso di andarci. No, io finché ho potuto ci sono andato tantissimo, anche dopo che ho smesso di correre in bicicletta, ho allenato anche una squadra di ragazzini, però più passava il tempo, più la professione diventava impegnativa. Adesso sinceramente non avrei neanche molto tempo per andarci, quindi sono sempre appassionato, mi piace sempre tantissimo. Ed eri un velocista, mi sembra di capire, cioè uno di quelli che veniva in teoria tirato teoricamente sì, in pratica era un gran fifone a dir la verità. Senti, tra l'altro scrive al 349-238-6666 Roberto da Modena che dice, fa una domanda semplicissima, non è che quella roba lì si chiama paura di vincere? Non lo so, forse sì Roberto, dimmi tu però Alessio. Si chiama mancanza di cattiveria agonistica. Ok, perché forse quella di cui parla lui è il braccio del tennista, è un'altra cosa. Bravo, no? il braccino che a un certo punto, oddio sto vincendo. Invece bravo. Lì è proprio che se cado mi faccio male. Sì, bravo, il terrore, sì. Io infatti facevo sempre un gran casino alle corse, sempre all'attacco, sperando di vincere in fuga, però non ci sono mai riuscito. E anche per questo poi ho smesso, perché mi sono reso conto che non sarebbe stato il mio futuro, perché i predestinati li vedi già, sono quelli che tutte le domeniche vincono. Certo, diciamo, nello sport è abbastanza facile, lo capisci abbastanza in fretta. Sì, Alessio, sì. Devo salutarti, ma prima voglio sapere che cosa prepari stasera. Guarda, stasera ancora non lo so, perché stasera vado a lavorare a Montalcino. Pensa un po', che bellezza. Nella patria del vino e io sono anche a Stemio. Va bene, però non so, un primo, un secondo? No, sicuramente un primo. Adesso vediamo, un risottino oppure dei funghi porcini, vediamo un po'. Alessio, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao, a presto. Ciao. 349-238-6666 mentre Oscar Giannino scalpita di là dal vetro nella sua tenuta sempre elegantissima e originale, mi scrivono: grazie Matteo, a 40 anni è troppo tardi tirare i freni? Spero di avere il coraggio per farlo. Forse non è arrivato il senso della puntata, era esattamente l'opposto, era che non dovresti tirarlo il freno, però forse ci siamo spiegati male noi, ma tu interpretala come vuoi comunque, cioè se ti sembra tardi tirali, se ti sembra presto lascia andare, insomma fai quello che ti viene. Scaricate il podcast del programma dal sito di Radio 24, la puntata di ieri è ancora disponibile visto che molti ce la chiedevano, quella della Continental, della traversata che ricordava la strada di Conrad, o se no in diretta tutti i giorni alle 16 o alla mattina alle 5:15 in replica, a tenere compagnia a quelli che si svegliano molto molto presto. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni, a Margherita Ina, grazie a Mauro Pescio, grazie soprattutto ad Alessio, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Gianluca, telefono da Torino. La storia di domani è la mia e parla della mia esperienza di giurato al Festival di Sanremo. Questa è la mia storia ed io sono qui.